Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi abbiamo con noi un paio di persone importanti e loro sono Francesco Pedrini e Dario Bersciani, rispettivamente presidente e vicepresidente di Avis. Buongiorno. Innanzitutto con voi vorrei parlare della Casa dei Donatori di Sangue. Casa dei Donatori di Sangue, in quanto appunto casa di tutti i donatori, e sul territorio nostro ci sono due associazioni che fanno promozione del dono del sangue, che siamo noi Avis e anche la Fidas, ma non è che casa dei donatori dell'Avis, casa di tutti i donatori di sangue, per appunto il concetto di casa, ambiente familiare dove ci si ritrova, dove si sta bene insieme, dove si fanno delle cose positive insieme. Intanto la casa nasce, diciamo, idealmente già nel lontano 1958 come concetto in Avis, e poi ovviamente ci è voluto qualche anno per riuscire ad arrivare a posare la prima pietra e a realizzare questa casa. La casa è stata inaugurata il 23 ottobre 2009, quindi abbiamo appena compiuto 10 anni con questa casa, ma Avis è sul territorio di Bologna con l'Avis comunale dal lontano 1939. Complimenti. Quindi è un po' di anni che siamo sul territorio. Come Avis nazionale nasce nel lontano ancora più 1927. Tornando alla nostra casa, questa è una casa che Avis, con la collaborazione delle istituzioni, che è stata fondamentale, importante come sempre, in particolare il Comune di Bologna e l'azienda USL, che hanno creduto in questa cosa e si è messo tutte le forze insieme, ognuno per le proprie competenze, per le proprie possibilità, per realizzare questa Casa dei Donatori di Sangue, che raccoglie al suo interno in primis il motivo principale, avere un centro di raccolta sangue degno di questo nome, dove i donatori possono essere accolti nel miglior modo possibile. Ecco, una cosa fondamentale, che l'Italia praticamente è quasi unica a livello mondiale, è che da noi il sangue non si paga, ma non lo paga nel pubblico, ma neanche la casa di cura privata, per un intervento privato a pagamento, può fare pagare il sangue. Dà al pubblico un rimborso per i costi sostenuti dal pubblico per raccogliere il sangue, ma non può farlo pagare al paziente. Grazie Francesco, grazie per quello che fate, grazie anche delle tue parole. Vorrei chiedere a Dario, che è qui con noi, qualche dato di più sugli anni in corso, insomma, come stanno andando le donazioni? Beh, direi che nel corso dello scorso anno, cioè il 2019, abbiamo riscontrato un valore, diciamo, importante e positivo. Il 2019 siamo, diciamo, soddisfatti, ma moderatamente soddisfatti, perché non dobbiamo mai essere soddisfatti. Come diceva Francesco, la necessità di sangue c'è sempre e pertanto noi non dobbiamo mai abbassare la guardia, pertanto anche quelle piccoli spostamenti in più che abbiamo avuto nel 2019 ci devono così far pensare che comunque abbiamo avuto da parte dei donatori una risposta maggiormente positiva rispetto a qualche anno fa. Infatti questi piccoli, diciamo, scostamenti positivi, che poi parliamo, siamo nell'ordine di un 7-8% per quanto riguarda il plasma, sul sangue intero se abbiamo mantenuto un livello costante rispetto all'anno scorso. Tra l'altro vorremmo anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti i donatori che costantemente vengono a donare il sangue. Teniamo presente che nella provincia di Bologna i donatori sono 25.400 e sono rappresentati da 7.900 donne e 17.500 uomini. E qui facciamo un appello alle signore, alle signore, in modo particolare giovani signore, insomma, venite a donare il sangue soprattutto. Quindi noi vi ringraziamo per quello che fate, vi ringraziamo ancora di essere stati qui con noi, rinnoviamo l'invito a tutti coloro che volessero donare per la loro prima volta, se non l'hanno ancora fatto. È una cosa che fa sicuramente stare meglio, è una cosa che fate in maniera disinteressata e che in qualche modo però vi ridona tantissimo indietro, e di contattare direttamente l'Avis bolognese. E per dare un indirizzo bologna.avisemiliaromagna.it è il nostro sito sul quale è possibile fare la domanda online. Oppure basta una telefonata alla sede dell'Avis o presentarsi presso la Casa dei Donatori di Sangue Veniteci a trovare proprio di fianco al Maggiore, esatto, accanto nell'area dell'ospedale Maggiore. Benissimo, grazie, grazie mille Dario, grazie Francesco, e ci vediamo alla Casa del Donatore. Benissimo. Non si dice così, casa dei donatori casa dei donatori di sangue. Grazie, ottimo. Grazie ancora, grazie a voi, grazie.